Continuiamo con le parole nuove. Le ripeta la seconda volta. Scusate. Excuse me, plural. Scusate. Cara. Dear. Cara. Stasera. Tonight. Stasera. I bambini. The children. I bambini. Come stanno? How are they? Come stanno? Figli. Sons or children. Figli. Affettuosa. Affectionate, feminine. Affettuosa. Adesso ripassi il nuovo vocabolario e poi continui.